Ottima scelta. La canoa è danneggiata da un grosso buco al centro. Nulla di irreparabile, ma per sistemarla dovrete trovare il legno adatto, che resista bene all'acqua. Un legno più denso contiene meno aria, quindi assorbe meno acqua e non rischia di gonfiarsi o marcire. Tutti i pezzi di legno a vostra disposizione pesano 10 kg e i loro volumi sono rispettivamente quercia, 5 metri cubi, olmo, 7 metri cubi, pioppo, 6 metri cubi. Sapendo che la densità si calcola dividendo la massa per il volume, quale dei tre legni ha la densità maggiore? Quando siete pronti, posizionate il tag voce sullo schermo per dare la vostra risposta.